Oggi vi voglio fare un regalo, voglio parlarvi di Maria. Oggi è la festa di Maria, Madre di Dio. Maria chiamata col nome più bello che lei ha, Madre. Che sia Madre di Dio, la Chiesa lo sa da 1700 anni, quando è stato dichiarato nel Concilio di Efeso solennemente. Madre di Dio, non appena madre di Gesù, madre di Dio, non perché ha generato la Trinità, chiaramente, ma perché avendo generato Gesù, vero uomo e vero Dio, può essere chiamata realmente madre di Dio. E da allora in poi la Chiesa l'ha sempre onorata così, ed è un po' strano che siamo arrivati solamente pochi decenni fa, insomma, è stata molto spinta da San Paolo VI, questo titolo, Maria, Madre della Chiesa. Maria, Madre di Gesù, dunque, Maria, Madre della Chiesa. Madre di Dio, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, come ci dice il brano evangelico ascoltato di Giovanni, capitolo 19, Gesù ci dà Maria come sua madre, a noi umanità, per mezzo dell'Apostolo Giovanni che ci rappresenta tutti. E poi abbiamo sentito raccontare negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, che Maria era con la Chiesa nascente, con gli Apostoli, nel Cenacolo. A noi sembra normale, non è tanto normale che le donne a quel tempo fossero dentro nel gruppo dirigente, diciamo, nel gruppo degli Apostoli. Maria, Madre di Dio, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, per 14 volte le litanie la chiamano Madre. Prima volta, Madre di Dio, prega per noi. Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre dell'Unità. Noi nelle litanie coriamo via e tante volte più o meno siamo attenti a quello che diciamo. Io vi auguro di gustare questo titolo bellissimo, guardando Maria dicendo Madre, perché avremo modo di gustare questi titoli, Madre di Misericordia, Madre di tutto, dato Madre di Misericordia non è dentro nelle litanie, eppure Mater Misericordia è uno dei titoli con i quali Maria è più amata e più onorata. Io penso quante volte l'avrà chiamata Gesù, mamma. Ma, magari diceva abbreviato come fanno tutti i bambini, no? Ma, mamma, non avrà detto come fanno i nostri bambini, mamma, no, Gesù, non me lo immagino che chiama la sua mamma così. Mamma, mammina bella, sei bellissima. Qual è il bambino che non vede bellissima la sua mamma? Che possa essere questo titolo di mamma, madre, mamma, sulla nostra bocca, perché io so che tante persone, uomini o donne, in punto di morte, hanno sulla bocca questo nome bellissimo della loro mamma terrena, certamente, che per noi possa essere anche la mamma celeste, magari chiamandola come si fa in dialetto, mamma.